schönen guten Abend und herzlich willkommen an Ingrid Rungaldier. Buonasera a tutti, un benvenuto a Ingrid Rungaldier e a Francesco Olivetti che l'accompagna questa sera alla nostra iniziativa organizzata in collaborazione con tantissime associazioni, adesso le dico tutte. Allora, sarò ottimista innanzitutto e poi avremo la presidentessa che ci parlerà anche dell'attività di questa associazione che ha sede qui a Bolzano da parecchi anni e vedo qui presenti anche numerose socie che saluto. Abbiamo poi il CAI che sta portando a termine la mostra sul Gascherbrunn 4 che è qua sotto al piano seminterrato e questa iniziativa anche organizzata insieme alla biblioteca provinciale che ha sede sempre qui al piano terra e ha così il piacere di concludere questo ciclo che è iniziato a fine settembre e durerà fino al 6 gennaio, fino a Natale più o meno. Ma lascerò poi la parola a Maurizio Veronese che è stato il curatore e l'organizzatore di tutta questa iniziativa di mesi e mesi di manifestazioni nonché di mostre. Abbiamo il piacere appunto di avere un ospite, anzi due ospiti, due signore che ci parleranno della montagna, dell'alpinismo femminile e appunto ci sarà la moderazione di una giornalista nostra di Bolzano che conoscete, è un volto noto. Ma prima di passare la parola a Maria Gloria Manzini e a Maurizio Veronese vorrei chiamare con noi l'assessore Vettorato che ci saluta. Sì. Grazie, per me è un onore, io sono stato invitato praticamente a tutte le serate che sono state fatte da Carlo, che volevo denunciare per stalking perché tutti i giorni mi mandava l'invito, ma purtroppo l'agenda è molto piena e sono riuscito a liberarmi solo questa sera. Che dire? Beh, innanzitutto conosciamo tutti il CAI, conosciamo tutti la biblioteca, potrei citare chiaramente tutti i protagonisti di questa rassegna. Il termine che li unisce è rete, fare rete, che è uno degli obiettivi che ci siamo posti, perché quando le varie associazioni, i vari soggetti collaborano, hanno degli ottimi risultati. Degli ottimi risultati che si tramutano in una cosa numerica. Dico solo che il Centro Trevi l'anno scorso ha fatto, in tutto l'anno 2018, 90.000 accessi. Al primi di novembre abbiamo contato 95.000 accessi, quindi contiamo di puntare entro fine anno a superare i 100.000. E questo è sicuramente dovuto al fatto che abbiamo aperto le associazioni, ma soprattutto perché le associazioni tra di loro fanno rete. Io non voglio tediarvi, vi auguro tutti buone festività, visto che ci siamo, e sono curioso di ascoltare. Grazie ancora. Bene, buonasera a tutti. Allora, come CAI Bolzano siamo un po' colpevoli di tutto questo trambusto che abbiamo creato da settembre in poi, ma ne siamo orgogliosi, oltre che onorati e anche felici, perché la cultura della montagna è qualcosa che va esportato e va diffuso, soprattutto in un ambiente come il nostro, dove, parentesi, guardatevi attorno questi quadri, è una bellissima mostra di una pittrice bolzanina, Riccarda De Ecker, che vive negli Stati Uniti e sono acquerelli. Acquerelli, lei ama le montagne, le cime delle montagne e le ha dipinte, montagne che ha scalato, perché è stata alpinista fino a 35 anni circa, dopodiché si è sposata, ha fatto due figli, è andata in America e le montagne le ha guardate solo, però ha riscoperto il piacere di osservare le montagne con i tratti del pennello e l'acquerello. E ha reso queste, se li guardate, sono delle fotografie, tra virgolette, meravigliose. Questa è stata la chicca finale di un percorso iniziato il 21 settembre con la mostra del Gascherbrunn 4, come è stato detto prima. Quando abbiamo portato la mostra a Bolzano, l'idea principale è stata creare rete. Cioè portare una mostra a Bolzano e mollarla qui, in una sala, con una bella esposizione, punto e basta, non aveva sapore, non sapeva di nulla. Invece l'idea è stata proprio creiamo una rete, collaboriamo al massimo con altre associazioni, con altre istituzioni che ci hanno oltretutto dato una grande mano, perché io non devo dimenticare che grazie alla provincia di Bolzano, qui c'è l'assessore alla cultura provinciale, grazie ai suoi uffici, dottor Claudio Andolfo, la dottoressa Lietti, che ci hanno dato veramente una grande mano. Poi la Biblioteca Claudio Augusta, il Centro Audiovisivo, il Centro Multilingue, la Dante Alighieri, il Sor Optimist, quindi, e altri anche sul dimentico perché poi sono state talmente tante le cose che abbiamo creato insieme. ma è stata l'idea proprio di portare qualche cosa alla città che fosse un po' una novità. Allora, la mostra del Gashebrum è una scalata bellissima, tipo il K2, ma del K2 si parlava tantissimo, si conosceva tutto, o quasi tutto, del Gashebrum si sapeva nulla. Quando l'abbiamo scoperta a Milano, al CAI Centrale, che ce l'hanno presentata, l'idea è subito che dobbiamo diffonderla, perché è una scalata e una spedizione altrettanto bella. E quindi questo è stato un po' tutto il percorso. Sabato avevamo questa sala strapiena con la figlia dell'autore delle fotografie della mostra del Gashebrum, Fosco Maraini, qui c'era Dacia Maraini, personaggio noto e che ha lasciato veramente, credo, un segno indelebile in chi era presente, quindi è stata una bellissima serata. Quella di questa sera è una serata che ci ha proposto il Sor Optimist, volentieri insieme alla Biblioteca Claudio Busta l'abbiamo accettata, la presenza di Ingrid Rungadier, che abbiamo già avuto con il suo film una settimana fa, circa o due settimane fa, bellissimo film. Questa sera ci parlerà allora di queste cose, un alpinismo femminile. Parentesi, l'UNESCO ha decretato la settimana scorsa l'alpinismo bene immateriale dell'umanità. È un riconoscimento in più. Ha maggior valore un alpinismo femminile, perché si ricordano i grandi alpinisti maschili, ma ci sono tantissime donne, tantissime valide alpiniste che hanno fatto altrettante belle cose, però quelle sono meno conosciute o meno ricordate. Questo è un peccato, perché non esiste uomo o donna quando si va in montagna, esiste la montagna e la persona che la avvicina e che la vive in maniera piena e completa. Ecco, ricordo solo domani sera l'ultimo appuntamento di questo lungo percorso, perché la mostra poi si chiude il 22, anche perché il Centro Trevi chiude per ferie dal 23 dicembre al 6 gennaio, quindi non si potrebbe più venire qui dentro a far nulla. Ma l'ultimo appuntamento è domani sera. Domani sera qui verrà proiettato, a cura del CAI Bolzano, e lo presenterà Augusto Golin, il film Fosco Maraini, Il Miramondo. È un'intervista a tutto campo che è stata fatta a Fosco Maraini, dove lui parla di se stesso, della sua vita, delle sue avventure, delle sue spedizioni. Maraini era un personaggio eclettico, ha fatto mille cose e sempre fatte in maniera perfetta. Ecco, questa è un po' l'ultima cosa. La mostra sotto si chiude domenica sera, alle 5 alle 17.30 verrà chiusa, e chi non l'avesse ancora vista, per piacere, fate questo grande sforzo, venite a visitarla, perché merita veramente di essere vista. Ringrazio di nuovo Sor Optimist per questa grande occasione che ci dà questa sera, per la collaborazione che ci ha dato, la Biblioteca Claudio Augusta con Valeria, che è stata eccezionale anche per la presentazione di vari libri che abbiamo fatto qui, una collaborazione che spero e mi auguro possa andare avanti anche nei prossimi anni. Ringrazio Francesco Olivetti, la giornalista, che questa sera coordinerà un po' tutto quanto, e Ingrid, che indubbiamente non ha bisogno di tante presentazioni, è un personaggio a tutto tondo. Grazie di nuovo, buona serata a tutti e buon ascolto. Solo due parole. Come presidente del Sor Optimist sono molto contenta di vedervi qui, anche molto numerosi. Noi siamo un gruppo di donne, facciamo azioni, progetti, piccole attività, grandi attività a seconda del momento, rivolte a promuovere cultura e a lasciare un segno nel sociale. Rispondiamo a una mission che è quella di valori etici, per il quale lavoriamo per ottenere più democrazia, più volontariato, più solidarietà. Quindi siamo vicino alla parte più debole della società. La serata di questa sera si inserisce non perché le donne, si inserisce in questo percorso non perché le donne siano deboli, ma perché siamo convinte che esistano una discriminazione dovuta a dei pregiudizi per i quali le donne sembra che abbiano delle capacità inferiori agli uomini. Io credo che questa sera Ingrid e Francesca ci diranno che effettivamente non è così, ci sono stati grandi donne, ci sono tuttora grandi donne, e quindi riusciremo col tempo a eliminare questi pregiudizi che abbiamo sempre, e riusciremo a rompere questo magico, non magico, tetro soffritto di cristallo. Buona serata a tutti. Grazie, un caloroso benvenuto anche da parte mia, buonasera a tutti voi, e proporrei un altro applauso alla nostra ospite di questa sera, Ingrid Rungalier. Donne che parlano di donne, di solito sono gli uomini a parlare delle donne, questa sera siamo noi. Ingrid, magari brevemente, molti di voi comunque lo sapranno, Ingrid proviene da una famiglia di alpinisti, è cresciuta, come spesso si dice, a suon di pane e montagna. Poi negli anni, nel tempo, si è specializzata e ha incanalato questa sua passione nella scrittura, parlando soprattutto di donne e dando voce alle donne che per vari motivi non ne hanno avuto, non che siano donne mute, perché come tutti voi sapete le donne hanno una chiacchiera non indifferente, ma questo è un capitolo a parte. Parliamo di donne mute, donne che per quanto si siano impegnate, per quanto abbiano raggiunto dei traguardi, dei successi, sono comunque rimaste invisibili al cospetto degli uomini. Ecco, noi questa sera siamo qui, cerchiamo in punta di piedi di affrontare il mondo dell'alpinismo del Novecento attraverso queste due grandi figure, queste due donne, due alpiniste, Mary Baralli e Paola Wiesinger-Steger. Come mai la scelta innanzitutto di queste due donne, Ingrid? Sì, ho scelto queste due donne perché mi sembrava che rappresentassero al meglio un tipo di alpinista già molto indipendente e non erano più le alpiniste dell'Ottocento che provenivano dall'aristocrazia, dall'alta borghesia, che andavano perché avevano dei padri, dei fratelli alpinisti. Sia Mary Baralli che Paola Steger hanno iniziato ad andare in montagna per loro scelta. Per una loro passione. Sì, tutte e due hanno in comune, erano sposate ma non avevano figli e per questo hanno avuto una carriera di alpiniste abbastanza lunga, perché è molto tipico per le donne, per le alpiniste, che hanno di solito delle carriere abbastanza brevi. Magari vanno a 17, 18, 19 anni, poi si sposano, io parlo del passato, si sposavano, avevano figli e appena avevano figli poi non andavano più. E con Mary Baralli e Paola Steger era diverso. Stiamo parlando poi del 1920-1930, quindi anche la società insomma vedeva queste donne in modo come, Ingrid? Come le vedeva quando andavano in montagna? Tutte e due scalavano dalla fine degli anni 20, anni 30, dal Mary Baralli dal 1924, che si era iscritta al CAI, fino al 1935, e la stessa cosa più o meno anche Paola Steger. Ecco, se riusciamo vi possiamo mostrare già delle prime foto che Ingrid è riuscita a trovare. Ecco, qui per esempio siamo nel 1800. Sì, qui saltiamo, facciamo un passo indietro, qui siamo nel 1882. Questa è la contessa Carolina Palazzi Lavaggi, si chiama, ed era, questa è una foto della sua tessera del CAI. Nel 1882 ha parlato in una sala davanti a un pubblico, in una conferenza, in cui faceva pubblicità affinché le donne andassero più in montagna, e c'era sicuramente un pubblico misto, soprattutto c'erano uomini, e lei diceva agli uomini di far andare le loro mogli, le loro figlie, e incoraggiava anche le donne. Se vuoi, ecco, forse se, qui puoi, se volete vi leggiamo qualche scritto, qualche riga che appunto questa contessa ha proposto nel 1800. Orbene, o signori, coraggio, invogliate le donne a seguirvi e fate che questa tendenza diventi generale. Per tutti ne risulterà un beneficio prezioso. Col conoscervi e col partecipare ai medesimi gusti si otterrà un pegno sicuro di soddisfazione e di felicità per le relazioni future. Oppure anche voi signori siate certi che i disagi della vita di montagna vi saranno largamente ricompensati dalla vista di panorami sublimi, dalla soddisfazione di aver vinto difficoltà che prima credevate insormontabili e più ancora dall'aver contribuito al benessere fisico e morale vostro e dei vostri figli. Pensate che questa donna scriveva queste cose già nel 1800, quindi cercava appunto di invogliare, di portare le donne in montagna, che non sia solo prerogativa maschile. Perché aveva notato che queste ragazze vivevano sempre in casa, rinchiuse in casa, soprattutto le ragazze della borghesia, dell'aristocrazia, facevano un po' di ricamo, un po' suonavano, imparavano a suonare il pianoforte, facevano un po' di musica, però erano rinchiuse in casa e lei si lamentava che facessero una vita malsana e per quello erano anche malcontente e per questo propagava la montagna per tutti, sia per i maschi ovviamente, ma in questo caso anche per le figlie. Ecco, chi poteva permetterselo? Chi poteva andare in montagna? In questo caso stiamo parlando anche di Mary Barale e Paola. Sì, nell'Ottocento era gente appunto che aveva soldi, aveva tempo e poteva permettersi di trascorrere settimane, se non mesi in montagna, perché costava anche molto trasferirsi dalle città in montagna e pagare un albergo, un posto in cui stare. Nel caso di Mary Barale e Paola Wiesinger era già diverso, perché già era più abbordabile prendere un treno, per esempio, e arrivare in montagna, e anche solo durante un fine settimana, per esempio, non si andava più solo, diciamo, per settimane o mesi. E, se vuoi possiamo andare avanti e mostrare altre foto, così appunto le vediamo già in azione. Ecco, questa foto già dice e mostra tanto. Qui siamo nel 1908, vicino a Edimburgo, e sono due signore del Lady Scottish Climbing Club che arrampicano. E mi piaceva sta foto perché si vedeva come fino all'inizio del XX secolo le donne andavano in montagna. Adesso questa forse è anche un po' esagerata, perché non tutte arrampicavano così, tante avevano una gonna, sotto la gonna avevano i pantaloni, con la gonna andavano fino all'attacco e poi si toglievano la gonna, e dove non si vedevano, dove non c'era tanta gente che le vedeva, andavano coi pantaloni. Quindi non andavano brave, perché scalare una montagna con la gonna, non so gli uomini cosa dicono. Questo era anche un motivo per cui gli uomini si lamentavano e dicevano: no, non portiamo le donne, perché tanto ci mettono solo in pericolo, e con ste gonne buttano giù sassi e non, sì, era anche una scusa poi per non portarle. Però loro si sono fatte forza, coraggio, e questa passione per la montagna le ha portate a scalare, a raggiungere certi traguardi. Ovviamente poi Mary Barale non arrampicavano così. Qui un'altra foto dovrebbe essere al Sasso Piatto, questa, e qui vediamo sette uomini e una donna. Mi piaceva la foto perché si esprime bene che le donne erano sempre in minoranza, o spesso in minoranza, perché di solito andavano o con delle guide alpine o con i loro mariti, amici, però c'erano, rispetto agli uomini, molto meno donne che arrampicavano, e soprattutto ce n'erano poche che arrampicavano a un livello un po' alto, diciamo, che riuscivano a fare cose difficili, per cui le donne si trovavano spesso in questa situazione che non arrampicavano con altre donne, ma sempre con uomini. E qui abbiamo la Miriam O'Brien Underhill, che è la Miriam della via Miriam alle Cinque Torri. E lei di solito arrampicava con delle guide, ma a un certo punto aveva notato che arrampicare la parte bella della scalata è quando si arrampica come primi in cordata, non come secondi, perché si ha più si deve pensare di più, si ha la responsabilità per la cordata ed è un lavoro intellettuale oltre che sportivo. E allora decise di arrampicare non solo senza guide ma anche senza uomini, perché se scalava con suo marito, che anche era un bravo scalatore, notava che lui appena arrivava in una situazione un po' critica, un po' difficile, lui saltava davanti e prendeva in mano lui la situazione, e allora preferiva arrampicare con delle amiche, con le cognate e così. Quanti uomini si fidavano ad avere una donna prima incordata? Ce n'erano innanzitutto? Ma quelli bravi comunque arrampicavano con donne che erano brave e allora si fidavano, proprio nel caso di Mary Varale, che arrampicava con, per esempio, con tanti bravi scalatori, con Emilio Comici e altri che le facevano anche andare come prime. Ma non era una cosa ovvia, non tutti, tutti lo volevano. Perché pensano nell'immaginario che ci vuole forza. Sì, che ci vuole forza e che bisogna avere certe caratteristiche, certe qualità. E qui veniamo a Amy Eisenberg, qui la vediamo anche, con Paul Preuss e Walter Schmidt-Kunz a Selva di Val Gardena. E Amy Eisenberg era anche una di quelle alpiniste, perché di solito gli alpinisti e le alpiniste non scrivono tanto, non parlano tanto di sé, alcuni sì, ma le donne spesso non parlavano di sé e per quello ne conosciamo anche relativamente poche, perché chi non lascia traccia in documenti, in foto, in libri, diari e così via, lascia tracce nella storia. Lei invece scriveva e scriveva anche articoli sui bollettini dei club alpini e per esempio una frase che diceva sì, per le donne non è difficile andare in montagna, non è più difficile che per gli uomini. Per lei infatti le cime delle montagne erano gli unici traguardi nella vita che si possono raggiungere facilmente. Lei diceva la vita è molto più difficile, non è che le donne non sono capaci di andare in montagna, sono capaci come lo sono gli uomini e per lei anzi era più facile che non risolvere i problemi della vita. E diceva anche, appunto perché come tu alludevi, dicevi sì, le donne hanno qualità diverse, lei ammetteva sì, le donne non hanno la forza che hanno gli uomini, ma tutte le altre qualità le donne ce le hanno, solo che la terminologia è diversa e le donne vengono valutate in modo diverso che gli uomini. Quando di un uomo si dice che è coraggioso, che ha coraggio, per le donne è sventatezza imperdonabile. Se da un uomo si parla di risolutezza, la donna ha una stupida ostinazione. La tenacia per la donna è una certa resistenza, sì, ammettiamo che è abbastanza resistente. Prontezza di spirito, una fortunata coincidenza. Amore per la montagna, amore per l'uomo, sì, perché delle donne si diceva sì, loro non vanno perché amano la montagna, vanno perché vanno gli uomini, allora per gli uomini vanno anche le donne. Così. E di Mary Varale che cosa ti ha colpito in modo particolare? Qui, solo perché abbiamo questa cartolina, è una cartolina di questa Amy Eisenberg a Mary Varale, sì, che abitava a Milano. A me di lei colpiva, qui la vediamo anche, le vediamo insieme, Mary Varale con la sua bandana, e poi c'aveva sempre un giubbetto rosso, e la chiamavano anche la signora col giubbetto rosso. Mary Varale, cos'è che mi ha colpito? Mi ha colpito che era una donna del ceto medio o di provenienza anche modesta, umile, una donna come tu e io, e che, alla quale è venuto in mente, un po' per caso, di andare in montagna e non... non sicuramente non ha chiesto ai suoi genitori di poter andare, e non l'ha chiesto a suo marito, perché andava già prima di conoscerlo, ed era anche sempre più brava del marito. E il marito questo glielo riconosceva? Il marito era un conosciuto, famoso giornalista sportivo, lavorava per la Gazzetta dello Sport, per esempio, però si interessava molto più di automobilismo e di ciclismo, e lei era l'alpinista. Però lui l'accettava e sicuramente anche la incoraggiava, questo bisogna anche dire, perché io non voglio... neanche mettere alpiniste contro alpinisti maschi, c'è sempre, e non si può neanche parlare di alpinismo maschile e di alpinismo femminile. Spesso le donne che sono diventate brave alpiniste lo sono anche diventate perché avevano degli uomini che le hanno incoraggiate e aiutate almeno non fermate, diciamo, non ostacolate. Mary Varale è nata nel 1895 a Marsiglia, era la seconda di quattro figli, mi sembra, e poi la famiglia si è trasferita a Milano. E dopo che si era, come avevo detto prima, si era iscritta al CAE nel 24, ha iniziato a scalare nel gruppo dell'Ortles, del Bernina, e poi in una vacanza a Canazzei ha conosciuto Tita Piaz, e con lui poi ha fatto le prime arrampicate, è diventata una bravissima alpinista. Qui la vediamo, sì, la cosa più, diciamo, forse la via più famosa che ha fatto è stata quella con Emilio Comici, lo spigolo giallo sulla cima piccola di Lavaredo, e in cui dopo questa via Comici l'ha molto lodata e ha fatto sapere anche agli altri che non è che avessero questa impresa era riuscita nonostante che c'era una donna, nonostante che c'era lei, ma proprio anche grazie al fatto che c'era lei, perché lei non aveva bisogno di essere aiutata ed era indipendente e una brava scalatrice, e motivava anche gli altri di andare avanti nei punti difficili. Aveva una sua grinta particolare, sì, che ritroviamo anche in questo scritto, una lettera che la stessa Mary Varale scrisse: se bello era arrampicare, sì, incordata. Che introduco solo un attimo, perché diciamo pochi, sia donne ma anche uomini, non è così frequente che andavano da soli, però a lei piaceva anche arrampicare da sola, senza compagni, e quando non trovava dei compagni di arrampicata, forse non mi sentivate prima, adesso si sente meglio, no, per questo. lei appunto arrampicava anche da sola. Ci sono pochi testi in generale di alpiniste, però lei ne ha lasciati alcuni, ha lasciato qualche articolo, e uno in particolare che mi sembrava molto poetico, in cui descrive appunto il piacere di arrampicare da soli. E se puoi leggerlo. Se bello è arrampicare incordata, sentire che due, tre, quattro persone in quel momento non ne fanno che una, legate non solo materialmente, ma unite in una gioia, in una sorte che non può immaginare chi non ha provato. E di tanto in tanto scambiarsi una voce, un gesto, un aiuto che fanno parere più varia quella fatica di avanzare abbracciate, a spaccate, a sospensioni, su pei muri di roccia. Direi la solennità, quanto diversa è l'emozione di un'arrampicata solitaria, a tu per tu con la montagna, si diventa più seri, sale dal profondo un sentimento di maggiore rispetto per essa, quasi viene alle labbra di dirle: io sono sempre stata buona con te nel poco tempo che ti conosco, tu mi hai dato delle grandissime gioie e io ti ripago col mio sincerissimo amore. Vengo a te come se venissi a una madre, tu non mi sarai nemica, non mi scrollerai di dosso facendomi precipitare. Lascia che io salga incolume su per i tuoi fianchi, il mio passo è leggero, la mia mano ti accarezza. Quasi una poesia, una preghiera alla montagna. Sì, mi piaceva molto questo testo e secondo me... Lasciando questo testo, lei si è, non solo questo testo, ma quei testi che ha scritto, si è anche un po' iscritta nella storia dell'alpinismo, non solo femminile, ma dell'alpinismo in generale. E poi la sua carriera anche all'interno del CAI, come è proseguita? Appunto si era iscritta nel 24, poi nel... 1935, aspetta se adesso mostro la foto, aveva fatto una prima ascensione al Cimone della Pala con Alvise Andrich e Fulvio Bianchet e secondo lei avrebbero meritato una medaglia in merito, però il CONI non gliel'aveva dato a loro su indicazione del CAI e lei si era così offesa, ma offesa anche perché le avevano negato di pubblicare un articolo nel bollettino, per cui ha mandato una lettera di protesta ed è uscita dal CAI e dopodiché non ha più continuato ad arrampicare. Si è anche conclusa in questo modo un po' la sua carriera di alpinista. Insomma, dopo tanti successi, grande passione, dopo aver dimostrato che non c'è differenza tra l'uomo e la donna nello scalare le montagne, nell'andare in montagna, comunque non hanno rispettato questo suo successo in sostanza. Sì, probabilmente ci sono state anche altri fatti che erano successi e allora... se n'è uscita, non era una di mezzi termini, o di qua o di là, e se si arrabbiava allora non scendeva a compromessi. Aveva fatto tante scalate, aveva salito, credo, sì, sulla sua lista almeno ci sono 217 cime, e tante delle quali ha ripetuto parecchie volte, anche decine di volte, per esempio come... la traversata dei Torri del Violet e così via. E così, triste poi era anche, qui la vediamo con la corda, anche la fine della sua vita, perché gli ultimi anni della sua vita li ha trascorsi inchiodata a una sedia a rotelle perché era affetta da una grave forma di artrite e non poteva più muoversi ed è ceduta poi dopo questi anni di infermità. Può essere anche un po' subito, insomma, una grande delusione anche per come si è chiuso un po' il suo percorso, se vogliamo. È una donna fuori dagli schemi? Sì, però almeno quegli anni in cui il suo corpo era, diciamo, che era sano e riusciva ad arrampicare, ha fatto qualcosa della sua vita e sicuramente negli anni che era malata ha avuto almeno dei bei ricordi. Proseguiamo. E qui la vediamo ancora col marito, che purtroppo poi 10 anni dopo si è suicidato. Qui veniamo a Paula Steger. Wiesinger, faceva Wiesinger di, col nome della ragazza, la Paola come la chiamavano, era nata nel 1907, per cui era un po' più giovane della Varale. E, anche lei una, diciamo, un inizio simile. La mamma della, di Mary Varale era cuoca e anche la mamma della, della Paola Wiesinger era cuoca. Il papà non l'ha mai conosciuto, era caduto nella Prima Guerra Mondiale. E lei è cresciuta con i nonni e in modo forse più libero di altre ragazze, di, diciamo del, di altre sue coetanee. E comunque lei diceva o sosteneva che era anche la una fortuna, è stata una fortuna per lei che era cresciuta senza i genitori, perché non era controllata come, come le sue coetanee. Ogni tanto andava a Vipiteno a trovare sua mamma che lavorava lì e il fine settimana andava ad arrampicare con dei, dei poliziotti di frontiera che aveva conosciuto, fra questi anche Gino Soldà di Recoaro. E sì, anche qui. Qui la vediamo col marito, Hans Steger, che ha sposato nel 1942, però si conoscevano tanti anni prima e con lui già alla fine degli anni 20 aveva iniziato ad arrampicare. Paola Wiesinger e Mary Varale si conoscevano, erano anche amiche, si scrivevano ed era proprio Mary Varale che appunto tramite suo marito che era giornalista aveva scritto uno dei pochi o l'unico articolo su Paola Steger negli anni 30. Qui li vediamo col re del Belgio e il conte Bonacossa vicino. Portavano, Paola raccontava che la portavano, sì, erano una coppia di scalatori conosciuti, lui faceva la guida alpina e lei la portavano soprattutto perché quelli che erano intorno al re avevano, non erano contenti che lui andasse in montagna e allora per tranquillizzarli un po' e per tranquillizzare anche la gente della famiglia e i cittadini del Belgio, dicevano che andava, che c'era anche una ragazza, perché tanto se c'era una ragazza le vie non potevano essere tanto difficili, ma lei era una fra le più brave scalatrici, fra donne e uomini, non solo fra le donne, e c'erano tanti uomini che non erano così bravi come lei. Lei è campionessa anche di sci. Qui la sì, arrivo a quello. Qui la vediamo con la Riefenstahl, per cui faceva la controfigura in qualche film. E la Riefenstahl non voleva avere gli ematomi e le macchie blu sulle gambe quando doveva cadere per girare delle scene del film e Paola diceva che a lei non le importava proprio se aveva degli ematomi. Qui la vediamo come nuotatrice e tuffatrice, si tuffava da un trampolino anche di 10 metri e prendeva in giro il marito perché il marito diceva che anche lui era un bravo nuotatore tuffatore, però diceva sì, no, dal trampolino di 3 metri non poteva esprimersi bene, lui voleva tuffarsi dal trampolino di 10 metri, ma poi una volta che erano a Monaco, dove c'era un trampolino di 10 metri, lei si è tuffata e lui non ha avuto il coraggio. Così raccontava lei. Sì, ed era appunto anche una campionessa di sci, aveva iniziato con il sci club della Val Gardena, sponsorizzata da una da una scalatrice americana che si chiamava Hulda Jane Tutino, che arrampicava con la guida Ferdinand Glück e sponsorizzava la Steiger, mentre il marito le faceva da allenatore. E fra gli anni, fra il 31 e il 36, ha vinto 15 titoli fra slalom, discesa libera e combinata, e una volta a Rocca. Quindi poteva partecipare anche a gare. C'erano le discipline, c'erano le donne che andavano come donne, gli uomini, c'erano delle classi diverse. E, a Rocca Raso una volta era più veloce di 1 minuto e 7 secondi, perché invece di sorpassare un muro passando attraverso un cancello come era previsto, lei ha saltato il muro ed era molto più veloce di tutte le altre. E qui adesso arriviamo, vi mostro uno spezzone di film, perché nel 1935 era stata invitata ad andare a vedere il trofeo Mezzalama, che è una gara di sci alpinismo molto, molto lunga, di 45 km più o meno, dal Cervino al Monte Rosa. E lei era andata lì a vedere sta gara e un atleta, Giusto Giravasutti, si era fatto male ed era e ha dovuto interrompere la gara, e allora lei si è messo la sua uniforme, il suo berretto e degli occhiali e si è intrufolata in questa gara. Adesso vediamo se riesco a far andare. Simpatica Visinghe, che con l'amica Gabriella Andrea ha voluto recarsi a vedere gli uomini impegnati nella dura contesa. Un incidente ferma la loro macchina. La Gabriella ha rotto lo sci, ma non per questo rinuncerà al suo proposito. Doveva andare meglio per me. Non so, però non è tanto. Hanno raccontato il telecronista dell'epoca, ha detto appunto che si è rotta la gamba, è caduta, ma per questo non mollerà, proseguirà la sua gara. Qui fa un yodel e si vede come è andata lì a vedere la gara. E qui invece si vede come la beccano lì al posto di blocco. E non l'hanno fatta partecipare. Non l'hanno fatta proseguire, ha detto che non è possibile, e lei ha detto ah, è così e basta. Ovviamente però ci ha provato. È stata squalificata, e però in questo modo ha puntato il dito sul fatto che le donne non potevano partecipare e che però sarebbero riuscite. Lei sicuramente non sarebbe forse diventata prima, ma si sarebbe piazzata sicuramente meglio di qualche uomo. Insomma, Mary e Paola sembrano due figure molto simili, con questa passione per la montagna, questa forza di andare avanti, di non mollare, una caratteristica, se non sbaglio, mi pare di capire, che non volevano mettersi alla pari dell'uomo. Loro lo facevano per passione, è stata poi la società un po' a metterle da parte. Ma tutte queste donne sicuramente non andavano per dimostrare che erano uguali o meglio degli uomini. Andavano perché era la loro passione, e semmai si mettevano in competizione con se stesse per dimostrare che riuscivano a fare qualcosa, e perché soprattutto amavano la montagna, perché erano appassionate di questo sport. Tu che sei cresciuto in un mondo di alpinisti, oggi c'è ancora questa differenza? Quante sono le donne capocordata, quante sono le donne alpiniste rispetto agli uomini? C'è ancora un po' questa differenza tra uomo, donna e montagna? Ma adesso sicuramente nessuno si chiede più se uomo o donna, o se una donna non chiede più a nessuno se può andare in montagna o no, o lo fa e basta, e nessuno le dirà che non lo dovrebbe fare. C'è però da dire che comunque la natura influisce, perché ancora adesso spesso le donne, quando hanno figli, arrampicano di meno, e ancora adesso le loro carriere spesso sono più brevi. Poi bisogna anche dire che sì, le carriere sono più brevi. Adesso mi è sfuggito cosa volevo dire. Se c'è differenza tra una volta e oggi, se ancora le donne fanno fatica, in un certo senso. Sicuramente non visto che comunque i dati alla mano sono un po' di meno le donne rispetto però a livelli alti, diciamo altissimi, si contano sempre ancora molto, molte meno donne che uomini, per esempio l'alpinismo di alta quota, o quando ci sono, diciamo, anche in queste sì, quelli che arrampicano al, non so, decimo, undicesimo grado, adesso c'è tutta, no? Lì ce ne sono di meno, ma ci sono e hanno la libertà di farlo. Bisogna dire che dopo gli anni 70, da quando l'arrampicata, diciamo, da quando anche in Europa si è sviluppata l'arrampicata libera e l'arrampicata anche nelle falesie, nelle palestre, si è visto che sì, lì l'arrampicata non è più, sì, non l'arrampicata alpinistica, ma appunto nelle palestre, lì le capacità sono anche più misurabili, più confrontabili, e le donne avevano anche più facilità di andare in una palestra e hanno potuto dimostrare che sapevano arrampicare anche a livelli molto alti, e quello ha aiutato anche a farle più visibili. Ecco, studiando e approfondendo un po' la vita di queste due alpiniste del Novecento, che cosa ti hanno lasciato? Che cosa... C'è un pezzetto di loro che sì, come in tutti gli ambiti della vita, perché qui stiamo parlando di alpiniste, ma potremmo anche parlare di donne in politica, o donne, non so, scienziate, nella scienza o nell'arte. Il percorso delle donne è spesso un percorso diverso, è un modo diverso, diciamo, di... Le prerogative sono diverse, perché partono, soprattutto quelle appunto nel passato, avevano molta più difficoltà di fare queste cose, no? Sia nell'ambito dello sport che nell'ambito professionale, del lavoro. Le donne, per le donne di solito era prevista una vita nella famiglia, non nel pubblico. Non potevano, le donne non potevano studiare, non potevano andare all'università, tanti lavori non li potevano fare, e per questo le donne alpiniste sono un po' un esempio, un modello per altre donne, in questo caso per donne che vanno in montagna, ma per noi adesso sapere che c'erano altre donne che hanno fatto cose difficili in ambiti dominati, diciamo, maschili, sono un esempio, un modello e un incoraggiamento di intraprendere anche vie e strade non tipiche per le donne. Quindi, insomma, hanno dimostrato che non solo la montagna è di tutti, ma che se segui un po' le tue passioni, se sei costante, se insisti anche, riesci comunque ad ottenere dei risultati. Sì, e soprattutto donne come Mary Varale e Paola Steger sicuramente erano anche molto criticate ai loro tempi, perché erano veramente delle eccezioni e si diceva... Cosa dicevano, di tutto, per esempio? Sì, che dovevano stare a casa e stare a casa a fare la calza e stare a casa, non so, a cucinare e così. Invece loro erano delle donne libere, anche privilegiate forse, che avevano scelto e che vivevano questa loro passione senza farsi condizionare anche dalle male lingue, perché spesso erano poi anche altre donne che le criticavano, non erano solo gli uomini. Sempre difendersi dalle donne. E questo può essere un esempio per noi, no? Che se crediamo in una cosa, di farla e basta, di non farci condizionare. Di non porsi domande. Quanto costava arrampicare all'epoca? Ma non poteva permetterselo? Ma nell'Ottocento, come dicevo, era una questione di, diciamo, già un viaggio costava tantissimo e poi era difficile arrivare in un posto e si rimaneva lì tanto tempo e costava abbastanza, perché poi questi si prendevano delle guide e che dovevano anche pagare, ovviamente. Come arrampicavano Mary Barale e Paola Steger, sicuramente non spendevano quasi niente, perché una come Mary Barale veniva in fine settimana, veniva in treno e dormivano nei rifugi senza spendere chissà cosa. La Paola Steger raccontava che quando lei andava tipo alla Civetta ci andava a piedi, non si permetteva un mezzo pubblico, o anche quando andava a sciare al Renon o in Val Gardena andava a piedi, e per cui non è che spendevano tanto. E poi queste lavoravano anche, almeno la Paola Steger lavorava in un negozio a Bolzano e dopo gestiva un rifugio, questo qui che vediamo all'Alpe di Siusi, e anzi ha lavorato fino a 92 anni, era sempre lì nel suo albergo, poi più che rifugio, e diceva sì, il suo lavoro è il suo tiramisù. Insomma, lei ha chiuso un po' la sua vita dal punto di vista agonistico e anche meglio rispetto a Barale. Sì, è stata fortunata che ha avuto la salute che l'ha accompagnata fino a quando era anche molto anziana, perché poi fino alla fine è sempre stata in salute. Invece in questo senso Mary Barale è stata più sfortunata, però non meno brava. E anche questa cosa volevo dire, sì... non c'erano tante donne che arrampicavano, per cui avevano poche occasioni di arrampicare insieme. Però Mary Barale e la Steger ogni tanto scalavano insieme. E c'è qualche scritto su di loro? Sì. Cosa dicevano l'una dell'altra? No, si stimavano molto e non è che andavano adesso tutti i giorni a arrampicare insieme, ma magari qualche scalata e in qualche stagione l'hanno fatta, e si stimavano molto e appunto, come dicevo prima, Mary Barale ha anche scritto su Paola Steger, e anche questo è un fatto raro, perché di lei gli uomini non scrivevano, ma di solito sono donne a parlare di altre donne e a motivare altre donne, per cui anche noi siamo qui adesso a parlare di donne. Se abbiamo ancora un po' di tempo, volevo leggervi un altro pezzo di Mary Barale, appunto, che descrive un po' il momento quando arrampicava. A una donna, pensate, è permesso di avere paura, specialmente se le si ordina così bruscamente di buttarsi giù da una torre sotto la quale si apre una voragine di 300 metri. Ma siccome non volevo far vedere di impaurirmi davanti a quel celebre arrampicatore col quale dovevo scalare ancora tante vette e che considero come il mio maestro, non battei ciglio e con la massima freddezza, fattami sull'orlo della torre con le spalle rivolte al vuoto, mi lasciai andare. Sono momenti di emozione che non dimenticherò mai più. e poi ancora il carattere forte e puntiglioso di questa donna, da come descrive anche Ingrid, porta la stessa Varale a realizzare anche molte salite da capocordata, come appunto prima testimoniavi. Sì, la cosa diciamo particolare di queste due donne è che loro alla fine degli anni 20 riuscivano già a scalare un sesto grado come prime di cordata, ed erano pochissime le donne. Un esempio di sesto grado? Il sesto grado a quei tempi era il grado diciamo più difficile dell'alpinismo. Intenderci oggi, che tipo di scalata? Non saprei paragonarlo, però quei gradi più difficili di adesso, perché poi bisogna anche pensare a come erano attrezzate, avevano la corda solo intorno alla pancia, se cadevano veramente potevano farsi male, come si vede non avevano neanche il casco, e era anche molto più difficile, diciamo, se succedeva qualcosa, andarle a prendere. Qui mi viene in mente adesso. Hanno mai avuto incidenti? Sì, c'è una storia carina di Paola Steger, che era andata al Catinaccio con due compagni, e salendo si era al Catinaccio, adesso non mi ricordo, no, alla Marmolada. Erano andati lì e avevano dovuto bivaccare due volte, perché uno dei due era stato toccato da un fulmine e si era ferito, e allora riuscivano a continuare in modo molto lento. Lei è riuscita con l'altro compagno a portarlo un po' più in alto, insomma per due notti hanno dovuto bivaccare. Lei poi è andata a chiamare aiuto, c'era già Tita Piaz che aveva iniziato un intervento di soccorso, e alla fine sono tornati giù alle 2 del mattino. I due compagni sono rimasti all'ospedale per due mesi e lei il giorno dopo alle 8 era già al lavoro a Bolzano. Ed è un aneddoto che appunto anche la Mary Varale racconta in un suo articolo. Vedo che ci sono degli uomini in sala, sono più le donne questa sera, però c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Volevo raccontare un aneddoto. Quando lavoravo ancora nel 1997, erano Alpi di Siusi, e sono entrato all'hotel Steger dell'Ai e mi si è avvicinata questa signora anziana e si è presentata Paola Wiesinger, mi si è accesa una lampadina e ho cominciato a parlare, e poi ho capito che era lei. Sono rimasto quasi 4 ore a parlare, e a 90 anni si ricordava tutta la salita della Steger dell'Ai sull'est del Catinaccio. Me lo ricorderò sempre, brillantissima, tutta con i riccioli permanente, 90 anni aveva. Sì, lei fino alla fine è sempre stata molto, sì, si ricordava tutto. Però mi ha parlato solo di alpinismo, non mi parlava di sci. Arrampicacella, Violet, eccetera, incredibile. Sì, perché quella forse era la sua vera passione, anche se all'inizio sicuramente i successi li ha avuti anche nello sci, e di lei si è parlato molto anche nello sci, perché lì c'era forse anche un pubblico maggiore, no? Nei circoli, quelli che conoscono la montagna erano dei giri forse anche un po' più ristretti, e all'interno di quei giri la si conosceva, però forse era più conosciuta come sciatrice. E vedendo quella fotografia del rifugio, mi ricordo che mi aveva detto che gli spiaceva che allora non era stato ristrutturato, non le piaceva più, e mi ha detto: quando morirò lo rifaranno e non mi piacerà. L'albergo è diventato una roba allucinante. Sì, è vero, è diventato bruttissimo, o diciamo è diventato un albergo come tantissimi altri, e quando c'era ancora lei aveva un'anima diversa, no? C'era la sua anima ancora lì dopo, non più. Sul fronte rischi, Oggigiorno, ahimè, tanti non affrontano bene o con coscienza o con testa la montagna. Ecco, loro come si ponevano di fronte alla montagna? Se c'era qualche rischio, lo correvano oppure lasciavano stare? Ma io penso che non si può fare una differenza, gli uomini sono così, sono spericolati e le donne stanno più attente. Dipende, ci sono uomini che sono così e uomini che sono diversi, donne che sono così e donne. Secondo me è un po' un pregiudizio che abbiamo, no? Fare la differenza. Mary e Paola? Com'è? Mary Varale e Paola? Sì, secondo me loro non so se rischiavano, ma sicuramente andavano fino in fondo, cercavano di arrivare in cima e di risolvere i problemi che c'erano da risolvere. Poi, non avendo figli, non avevano questo pensiero di non poter andare o di stare più attente o così. E, sì, ci sono spesso queste discussioni, no? C'era questa arrampicatrice, la Hargreaves, che è deceduta al K2, che era la mamma di quel Ballard che qualche mese fa è morto. A lei rimproveravano tantissimo che andava, perché lei era morta quando aveva già i figli piccoli. E spesso i giornalisti le facevano delle domande anche un po' misogene, no? Che dicevano sì, perché alle donne fanno poi sempre le domande, sì, e i figli a casa, chi li accudisce? A un uomo non, purtroppo qui in Alto Adige abbiamo anche meno queste domande. Uomini con bambini piccoli. Ecco, a me ha sempre un po' affascinato e allo stesso tempo anche impaurito questo amore per la montagna. Quando è che uno può sapere quando è lì? Forse la montagna non è pericolosa che altri sport o andare in macchina. Se vado stasera a Verona magari mi capita un incidente ed è più probabile che andare in montagna se hai le precauzioni e se ti assicuri. Ovviamente nella vita sempre può succedere qualcosa, ma non si può controllare tutto. Bisogna affidarsi. Sì, e chi è appassionato, chi non va in montagna non lo capisce, chi va in montagna capisce anche che uno qualche volta rischia, ma tutta la vita è un rischio. Grazie a Ingrid Rungaldir per la sua presenza, grazie al Centro Trevi e a Sono Ottimista per questa serata. Grazie ancora per essere intervenuti.